Pronto, vi sento molto male in realtà. Accidenti, ci senti? Sì, riprova. Vai, allora, ti stavo, insomma, ho fatto una breve introduzione, ti chiedevo come stanno andando le cose. Allora, guarda, il corteo è riuscito a partire solo ora, siamo veramente una marea. Diciamo, noi li stiamo stimando almeno sui 10.000. Continua ancora ad ingrossarsi. Il corteo, il concentramento che era in Piazza Garibaldi, al centro della città, appunto non si è ancora del tutto dispiegato nel corteo, mentre il corteo è già arrivato due ponti oltre sulla via del Lungarno. Ci dirigeremo oggi, come è stato dichiarato nei giorni scorsi, verso la stazione, e credo proprio che polizia o meno, insomma, riusciremo a praticare questo obiettivo di blocco. Senti, nel caso in cui dovesse passare questo decreto legge, voi avete intenzione di proseguire le mobilitazioni da subito? Sì, senz'altro, vanno capite naturalmente le forme, naturalmente la giornata di oggi è importantissima, naturalmente oggi si gioca molto e cercheremo in tutti i modi di bloccare definitivamente questa riforma, di far ritirare il DDL, però sicuramente nel caso in cui il DDL passasse non finisce assolutamente là. Non è sufficiente pensare che i numeri al Senato appunto siano sufficienti a far passare la riforma, perché c'è un movimento reale che, indipendentemente da quello che può succedere dentro il Parlamento, può continuare ad esprimersi con forza, e c'è una situazione governativa che vede un'instabilità tale da farci credere che in questo momento non c'è niente di scontato. Comunque, guarda, stiamo intervistando un po' tutta Italia, nonché Roma, sono tutti quanti d'accordo sul fatto che anche se il DDL dovesse passare, questo movimento non si fermerà, non si può fermare, perché c'è l'opportunità di creare qualcosa di più di un movimento che sia solo contro la Gelmini. Ma aspetta che c'è qui un altro ragazzo che ti vuole fare una domanda. Sì. Ciao, intanto io sto in mobilitazione alla Sapienza. Uno dei punti. Continuo veramente a sentire molto molto piano. Senti ora? Ancora no. Vai. Ora? Si sente? Sì, meglio. D'accordo, allora guarda, tenterò di parlare più forte possibile. Io sto in mobilitazione alla Sapienza, e noi alla Sapienza una delle cose che stanno emergendo è proprio come continuare le forme anche in caso di approvazione di questa riforma, ma penso che l'approvazione, poi, visto che si tratta, come detto, di un processo che dura da 20 anni, non sia proprio una delle cose che possano e debbano far finire questo movimento. Si pensa dunque al 14 dicembre come una data su cui mobilitarsi, ecco, ma il grosso della discussione verte su un qualcosa. A fronte di un attacco che ormai è più che decennale, come muoversi all'interno di come muoversi anche per dar luogo a un movimento d'opinione e di militanza che riesca a rinnovare l'università? Voi la domanda è questa, insomma, voi a Pisa come lo affrontate questo discorso? Ne state parlando? Come funziona? Allora, diciamo che a Pisa c'è la piena consapevolezza che questo movimento può essere quello che davvero dà la spallata al governo. Davvero in questo periodo tutti parlano di staccare la spina al governo e nessuno ha la forza comunque di prendere in mano la situazione e davvero dare un segno di discontinuità rispetto al berlusconismo. Noi crediamo che in ogni caso questo movimento, se riuscirà a darsi una continuità, diciamo, da qui alla fine del 2010, è quella soggettività appunto di piazza che manca chiaramente nel dare la spallata finale a questo governo, ma chiaramente non finisce qua, quindi sicuramente ci stiamo organizzando, anche noi ne abbiamo parlato dell'assemblea per la giornata del 14 dicembre a Roma, ma come dicevo non finisce qua, perché naturalmente non tutti i problemi in questo paese sono determinati da questo governo in quanto Berlusconi, diciamo che, e in ogni caso il governo che verrà successivamente sarà con ogni probabilità allineato in ogni caso sulle posizioni di austerity europea, quindi sul voler far pagare la crisi al lavoro, ai beni comuni, alle università, e quindi evidentemente la lotta sarà di lunga durata in questo senso. Va bene. Ti ringraziamo per questa corrispondenza, un abbraccio, buona lotta. Naturalmente qualsiasi cosa chiamate, il numero lo sapete tanto, no? Un abbraccio a tutti, grazie. Va bene, dai, ti sento che sentiamo i manifestanti dai, che dai, reclamano dai. La piazza. Non vi sento veramente più. Va bene, non fa niente. Dai. Un abbraccio, ciao.